Libro di Aggeo. Il secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, fu rivolta la parola del Signore per mezzo del profeta Aggeo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josedac, grande sacerdote. Così dice il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: il momento di ricostruire la casa del Signore non è ancora venuto. La parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo. È dunque il momento per voi di starvene in case rivestite di legno, quando questa casa è devastata. Ora così dice il Signore degli eserciti: badate a quello che fate. Voi seminate molto, ma il frutto è poco. Mangiate, ma non a sazietà. Bevete, ma non fino all'ebbrezza. Rivestite, ma senza riscaldarvi. E il salariato riceve il salario per gettarlo in una borsa sfondata. Così dice il Signore degli eserciti: salite alla montagna per trasportare il legname e ricostruire la casa. Io porrò in essa le mie compiacenze e sarò glorificato, dice il Signore. Voi aspettavate molto e invece c'è stato poco, e quando lo portavate in casa io ci ho soffiato sopra. Perché? Oracolo del Signore degli eserciti, a cagione della mia casa che è in rovina, mentre ciascuno di voi si dà tanta premura per sé. Per questo il cielo ha ricusato la sua rugiada e la terra i suoi frutti. Io ho chiamato la siccità sui campi e sui monti, sul grano, sull'olio e su quanto il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josedac, grande sacerdote, e tutto il resto del popolo dettero ascolto alla voce del Signore, loro Dio, e alle parole del profeta Aggeo, per le quali il Signore l'aveva ad essi inviato. Il popolo temé il Signore. E Aggeo, messaggero del Signore, disse al popolo, nella sua qualità di messaggero di lui: io sono con voi, oracolo del Signore. Il Signore ridestò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josedac, grande sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e misero mano ai lavori nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Era il 24 del sesto mese del secondo anno del re Dario.